23, cambio. Sola 6:23. Oh, signor Gian Maria. È tabata, buonasera. Sì, buonasera anche lì, casa. Che mi devo sgolare io, boh. Oia. Chi dorme la figlia a pesci? Cazzo, entra non ve nessuno. Se sono 3 ore, cazzo, ogni tanto ho un colpo importante. Non mi risponde nessuno. Ma sono sempre in ascolto, va. Anda. Cazzo, non c'è altro nessuno. Anzi, aveva uno grugoso. Con l'ecco forte. Mi sembra Fantonello, però non ho potuto rispondere. Mi sembra Fantonello, non lo so, perché era un po' lontano, lo sento così, esattamente. Hanno giocato da Favida o non rispondiamo più? vuol dire, se sta cazzo se l'ha dato. Beh, cosa stai combinando? Nuda né nuda. Niente. Di altrettanto. Stamattina sono andato all'Abricco. Ho preso 2 pizze che mi servivano. E poi stasera è successo che è venuto un elettricista a aggiustarmi con le luci del viale. Ed eccomi qua. Elettricisti buru. Cosa per fare sto? Caldo c'è. Caldo. Ieri me ne sono andato a Banari che c'era la festa. Ho visto i fuochi e a luna ero qua. Oh no, io non ci sono sceso, non avevo gana. Se mi dormivo. A Bari c'era la festa di San Vincenzo, capito? San Lorenzo, di San Lorenzo volevo dire. Così che la festa è santo di mia moglie. Così che siamo dovuti andare là, abbiamo fatto una bella passeggiatina. Perché era un complesso, non mi piacevano, roba cagliaritana, non mi facevano ridere a me. No, si comprende. Non era un coso che piaceva, capito? Faceva un po' di musica e un po' di parlantina così, due. Tante cose, ma non mi piaceva allora. Già erami già anche stanchi, perché dopo dei fuochi d'artificio siamo andati lì, siamo stati un pochettino, ci siamo stancati, aiuto se andiamo. No, io non sono andata qui, sono andato anche e mi dormia, mi veniva l'usonna a me. Ehi, non siamo tutti i giorni che ci andiamo, poi siamo andati anche presto, verso le 5, 4 e mezzo anzi, era un caso a morire, prima siamo andati lì ai parenti, dopo siamo andati in chiesa che c'era la messa, e dopo la messa abbiamo fatto una passeggiatina, così dopo siamo andati a vedere i fuochi, alle 10:30 me lo ricominciato, esatto. Abbiamo fatto la serata così, va. Ti è fatto bene, ma come se devi svegliarti un po', almeno. Se tutto va bene, domani sera faccio un giro a Cosu. A Santa Cruz. Sant'Agostino domenica anche. E dove? Ah, giù a Sant'Agostino c'è la festa da oggi, domani e domenica. Ah, Sant'Agostino, esatto, è bellissimo. Ah, che gli fanno una festa bella, è da parecchio ciò che non ci vado. Domenica c'è la processione, c'è della Madonna, lì. Sono i fuochi la notte, in complesso i fuochi. Che ci va? Via. Prima si usciva, si andava a vedere queste cose a sera. Ma va, ne hai la cavaccata, ne hai i candelieri, no. No, ce la facciamo, no, mi abbiamo fatto sforzo ieri, perché la festa di mia moglie, perché mi manda di mia moglie, capito? E poi ne abbiamo approfittato per andare al cimitero anche, che se no non riusciamo noi così, no. Prima andavamo da tutti i posti, ma adesso... E quello sì, vabbè. Ogni tanto bisogna uscire, ma secondo com'è domenica sera, fa bene due abruzioni e poi a una certa ora mi guardo i fuochi. E dove li fanno i fuochi? Lì stesso, nella piazza. Oh, che cazzo fa? Era pericoloso. Oh, già ci sono vigili e tutto quanto, lì li fanno partire da dentro non so dove. Questi qua, questi ieri notte li fanno sempre al campo sportivo, e possiamo anche, se sono le gradinate, ci sediamo lì, si mangia, perché da mangiare a cenè, ma andare così a stare dritto, oi, topi di menina, cazzo, insomma stai traccati lui. vabbè. vabbè, chi ci può andare, va bene, no, e tu fai bene che ci vai, io ho una parola, magari, prima da Giovincelli andavo dappertutto alle feste, dappertutto, anche quando facevo la festa alle campagne, adesso dove vai, non ce la facevo più, no? Purtroppo la vecchiaia è carogna, bisogna sopportarla. Allora, non c'è più Rovati da Sassari, sennò avevo fatto fare la revisione, ma che lui è deceduto, no? Non possiamo fare più niente. Andami, andate a te. Signor Bacchisi, vediamo un po'. Attento, signor Bacchisi. Ma ieri sera è entrato? Sì. No, non c'ero io ieri sera, sono arrivato tardi qua. Sei arrivato che hai nove manco quattro. Perché non sa nemmeno se sarebbe, ogni tanto gli ha detto anche Marco, Gianni, Giulio, Cacianidu, chi su, ogni tanto si scende e già entra. Ma non lo so come entrerà tra poco. Oh, signor Bacchisio, manco dalla macchina per rispondere. Ma sarà ancora barese della macchina in parcheggio, in garage. Non lo so, Giovanni. Aspetta un attimo, ma mi ha musicato una zanzara. Aia, che sei grave. Ma non c'è una sogu. Attendi. Lanca, ma se è stato qualcuno mi ha punto. Sono grave quando iniziano a pungere. A me arriva la sera, ero in campagna, gatta. Ma gli ho portato due cose e mi hanno buttato una stessa. A finire? Sì, ma era giusto, gatta. Mi ha dato una mazza lunga. Io mi sono preso quella paletta elettrico. Quando li vengo, ci hanno già ammazzato un bel cazzo, è come apri, ci sono le zanzariere e tutto, ma deve essere che entrano quando apri magari il portiere del terrazzino, oppure nel portone delle scale quando lasciamo aperto la mattina, capito? Entra, qualcuno entra sempre. Sì, a me entrano dal bugiuro, entrano. Ma non ci piace la zanzariera, da là la devo mettere. Io ripeto, certe volte lasciamo aperta la porta, no? Siamo all'ultimo piano, per cui la porta alla scala. Perché tanto, siccome c'è anche mio figlio, l'apre lui, l'apriamo tutti e due, magari e qualcuno entra dalla scala, senz'altro. Oppure quando apriamo lo sportellone del terrazzino, magari per stendere la roba, già c'è anche lì la zanzariera, però se vai a stendere aprire anche quello, che posso entrare anche così. Infatti, dipende anche da come sono fuori, dipende come apri la porta per entrare. C'era anche ieri, c'era anche a Balla, ce n'erano, però io mi sono messo i pantaloni lunghi, però qualcuno gli ha l'appunto, e a quello è andato a pulire i pantaloni lunghi, a chi aveva i pantaloni di gocce, io no. Questi che non mi hanno appunto, però ce n'erano anche lì. Infatti bisogna stare attenti, che stanno a quelle tigri. Beh, mi hanno appunto anche in campagna stasera, però dopo ho visto che mi hanno appunto un paio, allora mi sono messo, ho spruzzato quel prodotto e già si allontanavano. Infatti bisogna stare attenti a questa zinzura. Hanno fatto già sei ammazzati. Ehi, ehi, attento, signor Marchisio. Ho una gara che si fa risalto. Però se tracco o sacco dal sudore come stavo lavorando, gatto. forse già entra più taglio. Allora chiuso. Quando banchevo due entra. Due parole e chiudiamo. Vabbè, anche due parole certe volte fa anche comodo, vai. Un saluto, non fa mai male. Già va bene. Marino, nemmeno. Marino, sì, sotto all'albero con la zappa, aspettando che cresca l'erba. Ogni tanto entra dove sta lì, ha detto arrivederci. Anche lui c'ha, è da farazzo sempre la parte. Sta lavorando penso. Ora sera magari quando arriva a casa deve fare qualche cosetta anche in casa, e per cui certe volte non avrà nemmeno voglia, e come fai? Stacco da lavoro e certe volte si è voglia di accenderlo, capito? Lo so che bisogna, come c'è da lavoro, non ho attaccato a anch'io. Ma gli entra che c'è buccia. Io l'ho aperta la porta, l'ho lasciata aperta, si entra, no? E buccia, la sentiamo. A voglia, se vuole entrare entra, se no rimano dove sono. Ti ammaggio ugualmente a cena stanotte. Qui c'è vivo. Attenzione signor Bacchisio, se ci si dai un colpo, ha detto che no. Bacchisio. Anche lui è stanco, e più si va più si stanca la persona, così che però può essere 5 minuti a far comodo, dai. Adesso oggi non c'è neanche propagazione, non c'è. No, non c'è, silenzio completamente, evidentemente. Ma sul 34 ci sono sempre, come si chiama, i portoghesi e la Spagna, cioè, tutte le sere. Vabbè. Ma così non andare anche io, non disturbano. Ma sul 34 però. io ogni tanto fanno stare così, sempre fermo qua, do una spazzolata e li sento, dopo ritorno qua, capita? No, io l'ho acceso stasera, ma gli hai sette e dieci che l'ha già acceso. Qua è sempre acceso, va dalle 5 qualcosa. Era sempre acceso, però mi sono allontanato, anzi mi si dice qualcosa, probabilmente mi raddormente, da voi mi sono compensato, e allora per male mi sono compensato di nuovo. Ho visto che sono tedesco di Bottoferro, duro subo, si è fermato in mezzo alla sabbia, hai avuto 650 euro di multa. E quando, e dove? Ieri, l'hanno fatto vedere oggi, l'hanno fatto vedere al telegiornale, a Rai 3, telegiornale sardo, 650 euro di multa, più 600 euro a Baccavannira con Garratrici, più altri 200 euro a Baputazia. E beh, dove però? A Portoferro. Atta, bebo. Sei domacco visto, gatta. Tale cozzata, vabbè da... vabbè di seri si ha fatto visto. Ha fatto... lo cosa ha fatto? E voglia attraversare in mezzo alla sabbia, lo cosa. 200 euro erano i bolsi, anche hai portato la sabbia. Adesso lo so come prima, no? Come tanti anni fa, facevo tutto quelli che volevano e non diceva niente nessuno. Mentre oggi sono delle leggi severe, oggi non si può nemmeno parcheggiare sulla strada vicino alla spiaggia. C'è tanto di cartella, c'è tanto di cose di non andare nei posti dove c'è sabbia, dove la sabbia è tutto, invece già se posto ha fatto. Non si va manco imparare, ne ha cavato a mangiare a pochi di vigili. È cozzata, ragazzi. Di macchine, ma ha affacciato la macchina a mezzo alla sabbia, cazzo. Ma non c'era fede, probabilmente si camminava. Mi danno dopo, lo fanno danno, mi. Tanto lo danno a Rai 3, tra poco. Ebbene, alle 7:30 era, ormai già detto. No, mi ha accorso delle zanzare nel parco, stanno dicendo. Lotta la febbre del Nilo. Il giornale a Rai 3 e lo dice alle 7:30. Sì, lo dice, sono le 8:15. Ci sarà ancora, Sì, c'è ancora, lo sto guardando io. Oh, e no, qua sta guardando la signorina, reazione a catena, qua è giraviru. La mia regala così, quello 600 euro è costato per cavannina. Cata, per dare, ragazzi. Tragitto, si è fatto belle serie questa volta, quello lì. C'era in serie buone. 200 euro di multa a chi hai portato la sabbia. Bobo, aspetta. Attenzione, signor Bacchisio. Bello, che chi è? Buonasera. Buonasera anche a lei. Andiamo, buonasera anche a Don Maria, buonasera a tutti gli ascoltatori, avanti solo. Signor Marino, proprio di bene mi fa vedere. Parli delle pentole, sbucca il tappo. Guarda, una cosa, diciamo, mi sono riposato, sì, il tappo. Ho terminato alle 4:30, mi sono riposato un'oretta, perché io stanotte entro alle 4, stanotte, e io lavoro anche domenica, quindi guardi. E lì mi dico, cosa vi stavo dicendo, aspetti mi stavi facendo sicuramente, no? No. Ho detto, parli delle pentole e sbucca il tappo. Via da te. Allora, non mi sa nulla, no, sono d'accordo. Il cervello ha funzionato, sì. Sì? Il terreno l'hai sistemato? Sì, a piano piano, le luci ho sistemato. Adesso devi dare la benedizzata, no? Sì, no, quello è già a posto, adesso devo mettere a posto freni, ammortizzatori e tutto quanto. Devo solo tingere. Ah, ma non ce l'hai anche la tua, no? In un magazzino ce l'hai? Sì, nel garage ce l'ho. Adesso dopo le feste a settembre inizio a metterlo a posto piano piano. Ehi, con calma, va, adesso ti fai. Si fa la settimana bianca. Torno subito, tu mi sta chiamando. Sì, a seguino. Oh signor Battisio! E allora signor Battisio! Vabbè, si alzò. Ehi, cazzo! Siamo tutti la sera, dice notte. Faccio corretta da là. Manco dalla macchina non mi intesi. Si arriva più bene. Ah, no, ma manca a te, Giovaccio. Fatelo pronto. Giovaccio manca a te. Siamo andrò via, non ci sono. Non posso, in salone. Adesso io. Poi attendo, poi non attendo, poi ci sono la. Ehi, entrate sul marino, mi, va, entrate. Andate se non c'è il marino. No, si è assentato un attimino che l'hanno chiamato. Ma quando mai non si è assentato? È tutto trafagliato sempre. Andiamo. Ma lo fa apposta, ma chi? Certo, se no come fai a dire, se no non dici niente, che lo fa apposta, dica, almeno dice qualche cosa a Bacchiglio. Buonasera signor Bacchiglio. Buonasera Figaro, buonasera, ben ascoltato. Via. Ecco, quanto sono le prove che mi hai dato? L'ho fatto uscire a nuovo. L'ho fatto uscire a nuovo, ma funziona. Ci vuole il microfono, parla e ascolta. E nel catturacciati. Se non si sa individuare la ricezione, la portante, però senza il microfono non puoi fare nulla. E poi i canali sono. Aspetta un attimino, Bacchi. Amici, già Maria che c'è nel televisore adesso, mi vedi sfruttando la sabbia. Aspetta che lo sa, c'è provando a vedere, aspetta. Signor Bacchisio, buonasera. Buonasera, signor Marino, buonasera anche a lei. Allora, che dice? Beh, sto facendo calore Marino, calore. Calore, a chi lo dici, troppo caldo. Io arrivo a casa, c'è la maglietta, mi ho pigliata, c'è la maglietta, sono di altre cose, prese e si state, guarda. Oggi c'è da morire, avanti tu. Ti ho appannato io, è peggio per te. Lo so. E poi anche la mattina presto, Bacchi, anche la mattina, io sono giù, stamattina io alle 4:15 ero già giù l'azienda, c'era da morire, c'era. Proprio, arrivo in zona e non si disfila, Non si disfila, avanti Bacchi. È molto calore, sì. Lo sto facendo a torre, quel fone che mi ha dato. L'ho fatto uscire a nuovo, l'ho rilucidato, l'ho messo in sesto, però i canali, uno è 29, l'altro è 48, e l'altro ancora non sono riuscito a trovarlo. Ma è giunto a quarti? A quartato, ma canale fuori uso. E non è altro che gli altri sono. Poi ci vuole il microfono suo. Il microfono farla ascolta, come c'è un microfono particolare. E che apparecchio è, Bacchi? Il fone c'è il canale. A trovarlo a parlare ascolta, però l'internet già si trova, già ci sono quei microfoni parlare ascolta in internet. Ma che sono, voglio vedere un po'. Cioè, veniva la candela, ma tanto è il gusto di farlo sentire parlare ovviamente. Però da ripeto, i canali sono tutti alti, il 45, il 49, e uno il 29, l'altro non sono riuscito a trovarlo. Ma chi guarda quel microfono che ci ha portato tuo cugino? No, ancora me l'ha dato. Quello che c'era l'altro giorno sotto il braccio. Ho capito che. Aspetta. No, quello che c'è stato dicendo un bacchino. Ci vuole uno quello che ci ha portato tuo cugino, o no? Ma mio cugino non ho portato nulla. Nada. Quello che ci ha portato, non stanno a mettere le cose. Ho capito, ma l'interrogativo. Ho detto che forse ci vuole uno di quei microfoni che ha portato un attenuamento pugino. No. Bisogna rovinarlo, queste volte di storia, rovinarlo con il microfono lì. Ma già lo so vincere, piano piano, avanti top. Già si trovano, quelli dai portatili, quelli piccolini, parla e ascolta. Ce l'ho io, ma non ne vale la candela a rovinarlo. Infatti, non ne vale no. E tu puoi trovare i... mettere il filo e tutto quanto. Qua ci vuole un gesto a 7 punte. Capito? Ci vuole un fino proprio a 7 punte. E mi convenite che c'ho io il 34 canali. Quello lì c'ha il microfono di Dico, però non è per l'ascolto, è solo per le bu. Allora ci vuole fare l'ascolto qui. Stavo cercando di mettere un altoparlante esterno. E non si sono individuato, però non riesco a trovare il positivo. Quello è da trovare, prima il positivo e poi il negativo. La portante l'ho trovata, la ricezione l'ho trovata, però la ricezione l'hai trovata, ma non hai trovato il volume. Se riesci a ciappare i due fili, l'altro parlante lo stacchi, se attacchi soltanto a portante con un microfono normale. Infatti, è quello che voglio fare. Piano piano ci lavoro, ma è... adesso l'ho messo in seguito, tutto quanto. Ho fatto l'alimentazione, tutto a posto. Se prendo a Sergio Mari, visto l'hai? Io ce l'ho di un apparecchio che non uso. Ce l'ho di un apparecchio VHS Marino, su 2 metri. Nuovo, anche l'apparecchio nuovo. Non l'ho mai usato perché ci mancano i quattro, però se do il microfono, l'apparecchio, cosa ne faccio? Non le vuole la candela rovinare un apparato, se mai prende un microfono, si trovano, oppure fare la modifica, mettere un altoparlante esterno e con un microfono normale, perché il posto per far uscire i due fili che si trova. E io so cosa ti dico, ma chi usiamo apparecchi, là, 3 apparecchi e va bene, là. E inizia a mattare lo gabbo, a 3 case, chi sta in per cui usiamo gli altri apparecchi, siamo tranquilli, là. Cara, in sigla i giochelli. Anche lui usava il vino facile. È anche il giusto di farlo funzionare, capito? Non è per altro. A spendersi sopra soldi per questo qua, molto bastone. A recupero vado. Già ho becchi, da che? Già ho becchi. Piano piano, un po' di pazienza, dopo gli altri fuori. Purtroppo, già si trova, vai. Avanti, Torricino. Sei il Torricino, L'unica cosa basta che individui l'altro parlante esterno e poi con gli altri fai direttamente il microfono normale. L'altro parlante. Io sono individuare quello lì. Lo fai esterno e poi il microfono normale, perché si fa uscire da quei buchi, ci sono buchi che sono a migliaia, ti metti un jack e hai fatto tutto. Infatti fai così, fai così. Oggi ti ho chiamato, cos'è? Lavorando? Mi sono chiamato, sto lavorando da chi? Lavoro come un indiano. Oggi ho terminato alle 4:20, ho terminato. Sono a casa, vado a letto, mangio qualcosa, un'oretta mi si è appoggiato. E stavolta devo entrare alle 4, a chi vedo dei gandarini, Carotti. Poi c'è un lavoro domenica, perché sto facendo le domeniche, e mi tocca andare alla rossista, a Puri, avanti. E quando è la rossista per te, Mario? Domani notte. Domani notte? E oggi sono già scesi i candeli dei neri, oggi, stasera diciamo, e domani notte c'è la rossista. C'era un casino davanti al garage, a mezzogiorno, non si può dire il fa. Stavo piazzando il candeliere, ma un casino fino a blu, infatti mi sono 4 dentro, ci sono la moglie, mi sarebbe allenando. Candeliere, se non ho capito, sì. Da Cristian. Da Cristian. Guarda, ero sul camion, al corso, ha diventato un zio il grosso Candeliere. Mi sono lontano giù a corso, ho visto dove era l'altro. Ma ogni giorno che andavamo c'era un Candeliere, ma al corso 5 abbiamo contatto. Questo era quello del Cinca Pietre. Il Candeliere è meglio del Cinca Pietre. Io ne approfitto che mi sono ciamelli. Ci sentiamo, ciao Gian Maria, ciao Battisio e ciao Marino. Statemi bene, ci sentiamo magari domani sera, se tutto andrà bene. Ok, ciao, sono in casa domani, dai, avanti Gian Maria. Ok, anche io ne approfitto, ciao, ciao. Proprio di mezzo, l'altro in casa domani, se Dio vuole. Ciao anche a Marino e anche a Bacchiglio. State bene, a domani sera Bacchiglio, riprendi tu e ascolto e chiudo, dai. Grazie Maria, grazie della piccola chiacchierata, saluto ancora in casa, buona cena, a domani se tutto coincide. Benissimo, anche a Tore, ciao Tore, buona cena anche per te, buon pomeriggio, buona cena, buon riposo, buon tutto, a domani, Marino vai. Ok, ci sentiamo, Gian Maria, domani siamo tutti in casa, domani si coincide certamente. Bene, avanti, Bacchini, allora? Allora Maria, anche per me mi è arrivata l'ora delle medicinali. Sono le 8, quindi via, anche così. Va bene, dai. Ce la vediamo Maria, ce la sentiamo, anche io me la faccio incorretti perché sono le 8 a prendere medicine. Ciao, sono qua, sono Marino, a sentirci ancora domani. Ciao, ciao. Ok, va qui, sono cambiato anche a te, ci vediamo domani, dai. Ciao, ciao.